2024 di Enrico Pagliarini. Questa è la puntata del 6 giugno 2009. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale 2024 è radio24.it. E come sempre vi ricordo che anche questa puntata sarà disponibile sul nostro sistema podcast per essere riascoltata online oppure offline sul vostro computer, sul vostro lettore MP3 o su qualsiasi altro strumento. Ci sono molte persone che ci scrivono e leggiamo volentieri le vostre email che ci raccontano dei modi più diversi per riascoltare 2024. Molti e sempre di più sono quelli che ci ascoltano attraverso palmari o telefonini, o meglio smartphones. Bene, continuate a scaricare il file della nostra trasmissione. Oggi nella seconda parte ci occuperemo di un tema particolarmente richiesto non solo via mail, ma anche molte persone con le quali parlo mi chiedono di occuparci di televisori a LED, LED television, oppure molto più semplicemente TV LCD retroilluminate a LED. Di questo parleremo più tardi nella seconda parte. Oggi la maggioranza dei contenuti sui nostri computer, in molte aziende e naturalmente su internet è fatto di parole. Forse non sarà più così tra alcuni anni per l'enorme crescita di immagini e soprattutto dei video, ma oggi sono le parole ad occupare il primo posto. E tra tante parole orientarsi non è certo facile, non è facile per le persone ma nemmeno per le macchine, per i computer. Oggi ci sono comunque tecnologie che ci aiutano a semplificare molte cose, ad orientarci, ad esempio a fare richieste o a interrogare computer ricevendo risposte particolarmente precise, a volte molto più precise di quelle che ci suggeriscono i motori di ricerca. Di questo parliamo con Marco Varone, che è presidente di Expert System. Benvenuto a 2024. Grazie, buongiorno a tutti. Voi siete una società italiana numero uno al mondo in un settore molto particolare che ha a che fare con le parole, più in generale potremmo dire con la lingua. Avete iniziato 20 anni fa, in che modo? Beh, noi abbiamo cercato di lavorare fin dall'inizio su un tema che nei primi anni riguardava più che altro un aiuto alla scrittura, un supporto. Noi siamo nati 20 anni fa, come dicevi prima, è un bellissimo traguardo. 20 anni fa non c'era ancora il web, non c'erano ancora le tecnologie innovative, la gente iniziava a usare i computer soprattutto per scrivere e fare i calcoli. Ok, programmi di videoscrittura e fogli elettronici. E quando abbiamo iniziato a lavorare cercando di creare qualcosa di innovativo, era molto comune cominciare a utilizzare i primi programmi di videoscrittura, ma c'erano pochissimi strumenti per correggere quello che si stava facendo. Io mi mettevo a scrivere il mio testo, ma non avevo strumenti per controllare se la parola era corretta, se la frase stava in piedi e tutto il resto. Perciò abbiamo intravisto all'epoca un'opportunità di sviluppare degli strumenti di supporto alla scrittura. Quello che adesso è il dentro tutti i programmi di videoscrittura, il correttore ortografico, ormai la gente lo usa e non lo sa neanche, ci sono quelle striscioline rosse che compaiono quando uno scrive una parola sbagliata, non sa neanche più che c'è qualcosa di particolare dietro. Bene, lì dietro c'è il nostro programma, per chi utilizza Word, il programma di videoscrittura più diffuso. Perciò abbiamo iniziato a lavorare sviluppando una tecnologia che fosse in grado di capire le parole del testo e di suggerire alle persone che stavano scrivendo gli errori che stava commettendo e come correggerli al meglio. È stato perciò un primo sviluppo che cercava di creare qualcosa di utile per la massa delle persone, perciò fin dall'inizio uno strumento utilizzabile da milioni di persone e che allo stesso tempo fosse abbastanza difendibile nei confronti di realtà estere. Voi sapete che in Italia la maggior parte del software che si utilizza viene dall'estero, dagli Stati Uniti, ma anche da altri paesi europei, altri paesi mondiali. Perciò quando abbiamo iniziato a lavorare sulle parole, abbiamo pensato, lavorare sull'italiano è un buon modo per creare una barriera, una difesa nei confronti delle software house estere. Se confrontiamo quello che facevate 20 anni fa con quello che fate oggi, tutto era molto semplice. Sì, era decisamente molto semplice perché alla fine non eri concentrati sul tuo documento, sul testo che stavi scrivendo, e i computer non erano collegati fra di loro, non c'era ancora la posta, non c'era ancora il web, era diciamo così l'utente singolo che cercava di migliorare quello che stava facendo. Dicevamo che voi vi siete specializzati subito nell'italiano, poi siete passati nel corso degli anni ad altre lingue, quindi diciamo dalla semplicità avete cominciato a complicare un po' le cose. Sì, diciamo che c'è stato un grosso cambiamento dopo circa 10 anni dall'esistenza di Expert System. È scoppiato il fenomeno del web. Prima, come sempre, negli Stati Uniti, che sono qualche anno avanti rispetto a tutto il mondo per le tecnologie avanzate, e poi anche pian pianino in Europa, in Italia, Italia quasi da buon ultima per i soliti problemi di costi di connessione, tutte le cose che non sto a descrivere. E il web ha veramente cambiato il mondo, oltre a quello che si dice come folklore, ha veramente cambiato il mondo perché ha cambiato l'accesso alla conoscenza esterna, la facilità di comunicazione e come effetto indotto, e noi l'abbiamo osservato molto perché da sempre lavoriamo con il mondo delle aziende, è cambiato anche il modo di gestire la conoscenza, di scambiarsi informazioni all'interno delle aziende. La posta è diventata pervasiva, la quantità di informazione generata con i programmi di videoscrittura e mille altri modi è esplosa, perciò non era tanto più la necessità di supportare la scrittura, che ormai è un dato di fatto, una cosa scontata, ma la necessità di rendere trattabile, gestibile, sfruttabile la sempre maggiore quantità di conoscenza disponibile all'interno delle aziende e all'esterno delle aziende. Quindi potremmo dividere la vostra storia tra prima del web e dopo il web. Assolutamente vero, è proprio un caso perfetto. Voi siete un'azienda italiana che ha cominciato già dall'inizio a lavorare con gli americani. Sì. In questo rapporto, beh, innanzitutto voi siete un venditore di software, questo non è da poco, non sono tante le aziende di software. No, le aziende italiane che sviluppano software generalista o comunque tecnologia innovativa sono pochissime. In alcune piccole nicchie di mercato sono presenti, ma sono rarissime. Ci sono tante aziende che fanno software per la contabilità, per le cose più normali, ma tecnologia software italiana sviluppata in toto in Italia, esportata, è un'eccezione, proprio una vera e propria mosca bianca. Io faccio sempre la battuta, noi siamo l'unica azienda italiana che invece che comprare solo tecnologia da Microsoft vendiamo anche. Infatti, come dicevo prima, all'interno di tutti i prodotti Microsoft di Office dal 95 ormai ci sono le nostre tecnologie linguistiche che servono a supportare la scrittura, perciò per noi è una cosa molto importante. Ci ha fatto anche capire che è possibile vendere tecnologia software, sviluppare tecnologia software di successo in Italia. L'Italia purtroppo non è molto famosa per la tecnologia avanzata. Noi esportiamo vestiti, esportiamo stile, esportiamo cibo, e eccellenza nel campo della meccanica, ma non tanto altro. Sì, poi parleremo anche dell'evoluzione dalle singole parole invece a strutture molto più complesse, quello che si chiama web semantico, però questo è un punto che mi interessa approfondire. Quando voi parlate con le aziende non italiane, non solo americane, ma insomma straniere in generale, qual è la percezione di un italiano che va e tenta di vendere software o allora, tecnologie? Insomma, noi eravamo molto spaventati quando qualche anno fa abbiamo deciso di sbarcare seriamente fuori dai confini italiani, perché per i motivi che dicevo prima l'Italia non è proprio percepita come un'eccellenza, e direi che possiamo dividere le reazioni, l'approccio sul mercato in due grandi tipologie. Il mercato americano è un mercato veramente aperto. Le aziende americane sono sempre disposte ad incontrarti, a stare ad ascoltarti. È molto facile, ad esempio, arrivare anche a livelli più alti. Se tu hai un messaggio giusto, in Italia devi fare tutta la trafila, dall'ultimo galoppino, 10 incontri per arrivare a un dirigente. Negli Stati Uniti è molto semplice arrivare abbastanza rapidamente alla prima persona. Ti ascoltano, sono aperti, loro non si fanno il minimo problema se tu sei italiano, pakistano o africano. Se hai una buona tecnologia, una buona idea e sei in grado di dargli un valore aggiunto per il loro business, non si fanno problemi, sono estremamente pragmatici. È differente la situazione in Europa, è più simile purtroppo all'Italia da questo punto di vista. È un po' più semplice raggiungere livelli alti, riesce a farti ascoltare, però il processo rimane sempre molto macchinoso e molto complesso. Perciò è più facile sbarcare sul mercato americano, così come magari poi è più facile che qualcuno ti sovrasti, perché è un mercato aperto a tutti, e il mercato europeo è un mercato decisamente più difficile. Senti, qualche settimana fa, forse qualche mese fa, un amministratore delegato di un'altra azienda italiana che vende tecnologia e vende software all'estero, anche negli Stati Uniti, mi diceva: noi per fare il passo ulteriore per andare in tutto il mondo, in tutti i mercati, molto probabilmente dovremmo o trasferirci negli Stati Uniti o comunque avere una buona base di partenza negli Stati Uniti, anche per reperire capitali. Da questo punto di vista, qual è la vostra esperienza? Direi che sia molto simile. Gli americani a comprare tecnologia non hanno problemi anche dall'azienda italiana, e se però vuoi veramente crescere sul mercato, dato una struttura, una dimensione significativa, indispensabile perché il mercato americano è molto ampio, molto complesso da gestire, devi avere una base là. Noi abbiamo una piccola base, abbiamo 3 persone attualmente, e per espanderti velocemente, perché il mercato americano non aspetta, devi cercare capitali ed è molto più facile trovarli sul mercato americano che sul mercato italiano. Perciò è molto simile alla nostra esperienza ed è un passaggio quasi obbligato, perché pur avendo noi una tecnologia semantica che anche per l'inglese è la migliore disponibile sul mercato, comunque una forte base sul mercato americano serve. Torniamo alle parole. Allora, diciamo che voi avete iniziato trattando le parole facendo fondamentalmente il correttore ortografico. Sì, come primissima cosa. Ecco, poi le cose sono cambiate e oggi parlate di semantica. Che cosa vuol dire, soprattutto che cosa vuol dire tradotto nel mondo del web? Assolutamente. Allora, per cercare di passare dalle singole parole al contenuto, all'intero testo, noi sappiamo che il contenuto informativo, la conoscenza che c'è in un testo, va molto oltre le parole. Riguarda la combinazione di queste parole, le frasi, la struttura, il significato delle parole. Perciò l'unico modo per andare oltre una raccolta di parole e capire quello che c'è scritto in modo simile a quello che fa una persona, non è possibile capire veramente nello stesso modo. Le persone, per fortuna o per sfortuna, sono molto più intelligenti di qualunque programma. Sì, ancora oggi sì. Poi... sì, vediamo, io sono abbastanza scettico sulla vera intelligenza artificiale. Io penso che i sistemi potranno diventare sistemi in grado di ridurre veramente al minimo la quantità di lavoro umano, però l'umano farà sempre la differenza. È una differenza che però, mentre adesso magari richiede 100 ore di lavoro, in un futuro ne richiederà solo 10. Perciò un guadagno di efficienza di un ordine di grandezza, che un risultato comunque sarebbe straordinario. Questo detto da chi si occupa di tecnologie semantiche è un messaggio di speranza molto, molto buono. Comunque, dicevamo, allora, la difficoltà, esatto, e la differenza tra... Per cercare di capire quello che c'è scritto in un testo, occorre capire il significato, capire la struttura e capire il significato. Però abbiamo sviluppato la nostra tecnologia dalle singole parole alla comprensione della frase, a quelle che sono le cose che insegnano a scuola, che poi si dimenticano e si applicano in modo automatico. L'analisi logica, questo è il soggetto, questo è il complemento oggetto, questa è la frase principale. Sembrano cose molto scolastiche, ma in realtà per dare al sistema la capacità di comprendere devi insegnargli questo tipo di cose. E devi insegnargli la semantica del linguaggio, quali sono i significati delle parole. Una parola come calcio, in italiano, se io la dico fa pensare subito allo sport. Ma in realtà è anche un'azione, ti ho dato un calcio, è anche un elemento chimico, è anche un componente della pistola, il calcio della pistola. È necessario insegnare al computer a capire che esistono tanti significati diversi, tanti contesti diversi, in modo che io so che sto parlando di calcio come attività, sto parlando probabilmente di sport, sto parlando dello sport più importante in Italia, più diffuso, sto parlando del calcio della pistola... molto più probabilmente sto parlando di criminalità, di cronaca, di cose differenti. Perciò insegnare al sistema la semantica del linguaggio, quali sono i significati, è fondamentale per riuscire a comprendere in buona misura quello che è scritto in un testo. Perciò questa esplosione della conoscenza causata dal web ha creato un'esplosione dell'informazione che allo stato attuale è quasi ingestibile senza strumenti automatici. Pensate ad avere l'informazione del web senza un motore di ricerca. Sarebbe completamente inutile. Avresti tutto irraggiungibile. Esatto. Ok, perciò è stato necessario sviluppare una tecnologia semantica in grado di capire il contenuto e di renderlo facilmente trattabile, disponibile per trovare più facilmente le informazioni, per organizzarle meglio, per ridurre il tempo, per migliorare i motori di ricerca. È una tecnologia assolutamente orizzontale, non è specifica per un settore, non si applica solo al motore di ricerca, non si applica solo al settore economico. È una tecnologia che capisce quello che è contenuto nel testo e aiuta le persone a estrarre la conoscenza che serve. Vi ricordo che nella seconda parte del nostro programma ci occuperemo e parleremo di televisori a LED, così vengono definiti. Si tratta di fatto di TV LCD, una tecnologia non nuovissima ma di cui si sta cominciando a parlare molto, e comunque sono molti gli ascoltatori che ci hanno scritto per chiedere di occuparci di questo tema. Nella seconda parte con Gianfranco Giardina. Adesso stiamo parlando di web semantico, dell'importanza che hanno le parole sul web e soprattutto dell'importanza di trovare tecnologie che riescono a farci comprendere il significato di così tante parole sul web. È con noi Marco Varone, che è presidente di Expert System. Dunque, tu Marco hai citato i motori di ricerca. Voi fate una tecnologia che serve per fare ricerche, però non fate motori di ricerca, dico bene? No, noi non facciamo motore di ricerca in quella che è l'accezione comune. Per la persona normale il motore di ricerca è Google, c'è molto meno gli altri, cioè il motore di ricerca per il web. E questa è una definizione un po' restrittiva, perché in realtà il motore di ricerca nella sua concezione originale è uno strumento per semplificare la ricerca e il recupero delle informazioni. Perciò noi non facciamo motori di ricerca sul web, verissimo, però facciamo motori di ricerca e tecnologie di ricerca per le aziende che hanno a disposizione un patrimonio di conoscenza che è chiaramente molto più piccolo di quello disponibile sul web, ma è molto più strategico. Sì. Una persona se sul web ci mette 5 minuti, 10 minuti a trovare una cosa che gli serve, non è poi così importante. Se all'interno di un'azienda le persone che cercano le informazioni che gli servono per il lavoro tutti i giorni riescono a recuperare qualche minuto ogni ricerca, alla fine dell'anno ho risparmiato centinaia, migliaia di ore di lavoro che sono un vantaggio immediato. Sì, soprattutto se le ricerche corrispondono veramente a quello che io vado cercando. Sì. Cioè se i risultati... Se i risultati, esatto, sono immediatamente fruibili. Infatti è molto importante che noi, oltre alla ricerca, quello che cerchiamo di fare con la tecnologia semantica che riusciamo spesso a implementare è non tanto una ricerca di possibili risposte, ma la restituzione della vera e propria risposta. Con una tecnologia semantica è possibile fare una domanda, così come faccio una domanda a una persona, e ottenere la risposta, non ottenere un elenco di 10, 20, 30, 40 documenti, dove magari il terzo contiene la risposta, ma intanto me li devo cliccare tutti, aprire e leggere. E perciò la tecnologia semantica abilita la possibilità di avere una domanda e una risposta, ed è una delle applicazioni più semplici. Noi l'abbiamo applicata in tanti contesti, un esempio classico è la ricerca di informazioni con il telefonino. Il telefonino è un oggetto che rende abbastanza complicato un approccio alla ricerca standard. Mi arriva un elenco di documenti, di link, li devo cliccare, il telefonino è piccolo, lo schermo non si vede assolutamente nulla. Con la tecnologia semantica è possibile fare una domanda, così come nel linguaggio di tutti i giorni, non devo neanche stare a ricordare la keyword giusta e le altre cose, basta che sia in italiano, in inglese, insomma, scritto in modo decente. Il sistema interpreta la domanda, la applica alla conoscenza che ha analizzato con la tecnologia semantica e cerca di dare la risposta. Non ci riuscirà sempre, ecco, non voglio dare il messaggio che sia una tecnologia perfetta. Tecnologie perfette non esistono. Se non è infallibile. No, non è infallibile, non esiste. Il mercato, abbiamo detto, riconosce nella vostra tecnologia una buona tecnologia, visti i successi insomma, che avete avuto in questi 20 anni. O comunque negli ultimi dieci anni. Allora il passo da qui a fare il motore di ricerca è breve, lungo? Cioè qual è la differenza tra un sistema che riesce a trovare una risposta se le informazioni sono circoscritte magari al patrimonio di un'azienda e invece a tutta la internet? Cosa cambia? Cambiano gli ordini di grandezza. Immagino che sia difficile, se no l'avreste già fatta. No, di fatto l'avremmo già fatta, saremmo ricchi come Brin e Page di Google, i due fondatori di Google. Allora, cambia l'ordine di grandezza. Sul web, anche se lo confronti con l'azienda più grande, che magari può avere qualche decina di milioni di unità di conoscenza, di documenti a disposizione, sul web hai 2, 3, 4 ordini di grandezza in più di conoscenza. E cambia il fatto che sul web la conoscenza è distribuita su tutto il possibile scibile umano. Si parla di tutto, in tutti i modi. Ho i negozi che vendono, i quotidiani che pubblicano, i blog di persone che scrivono, ci sono i forum in cui la gente discute, i siti delle aziende. È così eterogenea l'informazione che per riuscire ad applicare una tecnologia come la nostra occorre ancora sviluppo della tecnologia di base per riuscire ad applicarla in modo efficiente ed efficace. Quello che invece si può già fare sul web è applicarla a domini anche non troppo limitati della conoscenza disponibile sul web. Ad esempio su Wikipedia, che è una cosa che tutti conoscono e utilizzano, che crea molto traffico sul web. Sono tantissime le ricerche che hanno come risposta su Wikipedia. È già possibile, noi l'abbiamo implementato, mettere a punto un sistema dove invece che fare la classica ricerca e poi lui ti dà 3 o 4 articoli, clicco, scorro fino in fondo, io faccio la domanda, chiedo ad esempio quanti anni ha Francesco Totti, tanto per fare un esempio, il sistema non ti porta solo all'articolo di Totti, cosa che può fare quasi chiunque, ma ti risponde già con la risposta puntuale. Ah. E stesso modo puoi chiedere quanto è lungo il Po, piuttosto che quando è stata fondata la Microsoft, per citare un nome di cui parlavamo prima, qual è stato il 10° presidente della Repubblica Italiana o in che anno è stata lanciata la Coca-Cola sul mercato. Perciò possibilità di fare domande e avere risposte. Perché? Perché Wikipedia, pur essendo molto grande, più nella versione inglese, più di 2,5 milioni di articoli, è comunque una conoscenza introcontenuta di tipo divulgativo. Io ho detto più volte che nel settore della ricerca, ma intesa come ricerca sul web, quindi dei motori di ricerca, ci sono molti investimenti. Voi, mi sembra di capire, lavorate in questo ambito, giusto? Noi lavoriamo anche in questo ambito. Ma voi state cercando di andare in quella direzione, cioè di fare il motore di ricerca oppure no? Noi stiamo cercando di integrare le nostre tecnologie come prima battuta all'interno dei sistemi già esistenti, perché è molto più facile arricchire un sistema già esistente con nuove funzionalità, con nuove capacità di comprensione, piuttosto che partire da zero. Perciò noi lavoriamo già, ad esempio, con realtà sul mercato americano di social networking o di ricerca, motori di ricerca verticali, che utilizzano la nostra tecnologia Cogito per comprendere meglio la conoscenza e migliorare il servizio. Come passo intermedio, l'obiettivo è quello di riuscire a rendere più facile e più generalizzabile l'integrazione di queste tecnologie. Per ora è un po' troppo ambizioso pensare di fare noi un vero motore di ricerca per il web. Ci sono una serie di problemi di architettura, di scalabilità, di costi, di dimensione. Probabilmente la gente non sa che Google, per implementare i suoi servizi di ricerca e di consultazione, ha centinaia di migliaia di computer sempre online, sempre disponibili. Perciò c'è un ordine di grandezza che ed è molto complicato, però abbiamo già fatto integrazioni. Il nostro obiettivo è quello di cercare di integrare la nostra tecnologia in modo trasparente su chi lavora sul web, in modo che senza accorgertene puoi lavorare in modo più naturale e ottenere risultati migliori. Voi fate questo in italiano, inglese, arabo e tedesco. Esatto, l'inglese è stato lo sviluppo successivo. L'italiano ci serviva per coprirci rispetto alla concorrenza, come dicevo prima. L'inglese è la lingua franca per tutto il mondo, è la lingua del principale mercato mondiale, è una lingua che ormai è strategica per tutti. Con l'inglese noi riusciamo a vendere in Africa, in Asia, in Europa, in Oceania, ovviamente anche negli Stati Uniti. Il tedesco è un'opportunità di vicinanza di mercato. Stranamente sul mercato tedesco non esiste una realtà specializzata nella semantica che abbia le nostre capacità e il nostro livello di qualità, e l'arabo è una lingua che è interessante per un certo tipo di mercato dove si lavora molto più sulla sicurezza delle informazioni che sul mondo del business normale. Quello che oggi alcuni definiscono come semantic web, che cos'è? Semantic web è allo stato attuale la nuova utopia che speriamo possa diventare pian piano. Quindi diciamo che è una cosa che non esiste. No, è una cosa che non esiste. È una bella idea da parte del creatore del web, Tim Berners-Lee, che dopo aver avuto successo con l'idea originale, cioè la creazione del web, di questi contenuti interconnessi in modo ipertestuale, ha lanciato la sfida successiva. Il web è cresciuto così tanto, come si diceva prima, che ormai è molto difficile tenerlo sotto controllo e riuscire a gestire la conoscenza. Perciò il semantic web è l'idea di arricchire le pagine web di una conoscenza molto più ricca e molto più completa, che renda molto più semplice trovare le informazioni e manipolarle. Il vero problema è che per arricchire questa conoscenza allo stato attuale o si ha una tecnologia semantica molto evoluta come la nostra, o per alcuni casi ancora più evoluta, oppure questo lavoro di arricchimento deve essere fatto manualmente. Allora, noi sappiamo che se devo mettermi ad arricchire manualmente miliardi di pagine che cambiano molto frequentemente, che parlano di tutto, è una cosa molto utopista. Sì, non lo fa nessuno. Non lo fa nessuno. Difatti, per semantic web è una bella idea. È il modo con cui si dovrebbe rendere più semplice, molto più facile sfruttare l'enorme conoscenza del web, ma che richiede veramente ancora una serie di passaggi non banali, non trascurabili. Noi pensiamo di poter giocare un buon ruolo, perché la tecnologia semantica è una tecnologia indispensabile. Magari non è l'unica cosa che serve, ma è la tecnologia indispensabile per riuscire a valorizzare questi contenuti. Ti faccio un'ultima domanda sull'evoluzione della rete. Sappiamo che già oggi, ma nei prossimi anni, dalle parole, o comunque non ci saranno solo parole, ma ci saranno sempre più video e immagini. La vostra è una tecnologia che lavora sulle parole, e di fatto tutti i motori di ricerca lavorano sulle parole. È molto difficile per i motori di ricerca restituire delle informazioni, delle risposte basate sulle immagini, sui video. Se io faccio una ricerca sui video, trovo delle risposte sbagliate, delle risposte di tutti i tipi. Questo gli esperti, alcuni dicono che sia la prossima sfida dei motori di ricerca. Per quanto vi riguarda, state cominciando a sperimentare tecnologie per lavorare anche sulle immagini, che siano video o immagini statiche? Allora, sono d'accordo che la ricerca sulle immagini e sui video sia una nuova frontiera, perché alla fine pubblicare video e immagini sta diventando più semplice che pubblicare testi. Sì. La nostra tecnologia, essendo nativamente pensata per lavorare sul testo e sulla struttura profonda del testo, di per sé non si presta tanto, perciò noi direttamente non stiamo lavorando su tecnologie specifiche per l'audio, per l'immagine e per il video, però siamo in grado, stiamo lavorando sì, di rendere più sfruttabile quel poco tanto testo che spesso viene associato alle immagini, le taggature, per rendere più efficiente la comprensione di queste taggature, di metterle in un miglior contesto e di potenziare comunque la ricerca appoggiandosi a quel testo che viene associato alle immagini. E su questo stiamo facendo sperimentazioni interessanti con diverse realtà. È chiaro che la qualità sarà tanto buona quanto è buono il tag, la descrizione che è stata associata, però quando si lavora ad esempio con realtà istituzionali che comunque mettono delle didascalie, delle taggature sensate, il sistema può dare comunque un buon contributo. Comunque immagino che sia complicato trovare una tecnologia, non solo per voi, insomma per tutto il mondo, che riesca a capire cosa c'è in quel video. Qua sicuramente l'uomo è drammaticamente più intelligente. Assolutamente, infatti è estremamente complesso. A noi viene naturale cercare di mettere insieme le due tecnologie, perché molti clienti ce lo chiedono, hanno un patrimonio conoscitivo misto fra testo e parte multimediale, perciò noi siamo molto attenti a quello che viene sviluppato sul mercato. Però quello che attualmente l'offerta sul mercato è ancora molto primitiva e rudimentale. Addirittura molte realtà cosa fanno? Assumono i famosi cinesi o indiani che guardano il filmato e arricchiscono al massimo le informazioni testuali associate a questo filmato, in modo da dire qui c'è Barack Obama che è alla scuola, alla Ward University, che sta facendo un discorso sul sistema scolastico americano, e allora mettono queste informazioni. Però anche Google ha rilasciato di recente un primo prototipo di ricerca sulle immagini, ed è molto divertente perché cercando un'immagine di Dave Letterman, il famoso anchorman americano, e cercando quelle simili, l'immagine per loro più simile è quella di Oprah Winfrey, perché semplicemente sono contestualizzate insieme, ma l'immagine non aveva niente in comune come cosa. Perciò è un settore estremamente interessante, ma ancora piuttosto indietro dal punto di vista tecnologico. Bene, quindi insomma ci saranno sfide molto interessanti per i prossimi anni. Io ringrazio Marco Varone per essere stato con noi, presidente di Expert System, nonché uno dei fondatori 20 anni fa. Beh, allora buon compleanno. grazie, è stato un piacere. Seguiteci ogni settimana il sabato nel pomeriggio di Radio 24 tra le 15.30 e le 16.30, oppure quando preferite, quando volete, online sul nostro sito internet. Trovate tutte le informazioni per abbonarvi gratuitamente al nostro servizio podcast www.radio24.it, alla voce podcast, oppure naturalmente potete inviarci una email al nostro indirizzo 2024@radio24.it e vi daremo tutte le informazioni per utilizzare questo sistema, che vi dà la possibilità di scaricare in maniera automatica settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione, quindi di fatto ascoltarlo poi quando preferite, quando soprattutto avete tempo, voglia, ascoltarlo a pezzetti, insomma ci sono varie modalità di utilizzo. In questa seconda parte, come vi ho annunciato poco fa, ci occupiamo di TV a LED. Che cosa sono, come funzionano, quali sono i vantaggi, perché se ne parla tanto in questo periodo? Beh, risponderà a queste domande il nostro esperto di audio e video digitale, Gianfranco Giardina, nonché direttore di AF Digitale. Gianfranco, bentornato a 2024. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Noi abbiamo parlato di TV a LED, non so se si dice così, poi ci spiegherai meglio di che cosa si tratta, in una puntata di qualche tempo fa, 2024, però pare che oggi tutti o comunque molti stiano scoprendo questa nuova tecnologia. Il LED che entra nelle TV piatte, mi sembra che stiamo parlando di tecnologia LCD, beh, come mai tutti oggi ne parlano? Ma ne parlano perché soprattutto c'è una grande pressione pubblicitaria su questo tipo di prodotti. Va detto che il nome con cui vengono comunque riconosciuti TV a LED o TV LED è la contrazione di un nome un pochino più lungo e un pochino più complicato forse, ma che spiega precisamente di cosa si tratta. Sono TV LCD, quindi sì, a cristalli liquidi, retroilluminati a LED. Quindi non è una nuova tecnologia di per sé stessa, è una variazione sul tema della tecnologia cristalli liquidi. Quindi sì, perché ricordiamo che le TV LCD sono luminose, cioè possono emettere l'immagine perché dietro all'LCD c'è una lampada. Sì, il pannello a cristalli liquidi non emette autonomamente la luce di cui ha bisogno per costruire l'immagine, c'è un sistema di retroilluminazione normalmente che nella tradizione dei cristalli liquidi in tutti questi anni, in tutti i modelli che sono stati in circolazione, sono realizzati con dei piccolissimi, sottilissimi tubini al neon, potrei dire, tanto per semplificare, vengono chiamate lampade CCFL, ma sono comunque lampade fluorescenti. Dietro allo schermo ce ne sono normalmente una dozzina, a seconda della dimensione del TV, e subito davanti a queste lampade c'è un filtro diffusore che fa in modo che la luce venga diffusa uniformemente sullo schermo e che noi non si veda al di qua dello schermo le singole lampade. Questo è come normalmente funziona un TV LCD tradizionale, diciamo, sì, con l'illuminazione a fluorescenza. Quindi anche i monitor del computer funzionano così? Anche il monitor del computer, sì, funziona così. Ok. Cosa succede? Qualche anno fa, direi un 2-3 anni fa, incominciano a essere introdotti i primi TV retroilluminati a LED, quindi usando la tecnologia del LED, che conosciamo benissimo perché abbiamo piccoli LED, sono sul frontale di tutti gli apparecchi, tutte le classiche spie, no? sono dei LED, sì. Okay. Sono dei piccoli transistor in realtà che hanno la caratteristica di emettere luce. Perché viene utilizzato una retroilluminazione a LED? Beh, per una serie di motivi. Innanzitutto hanno una durata nettamente più lunga delle lampade CCFL, ammesso che qualcuno riesca ad arrivare alla fine vita delle lampade CCFL su un TV, perché poi alla fine anche questo va considerato, visto che si parla di decine di migliaia di ore. Consumano meno a parità di emissione luminosa, sono più compatti, consumando meno scaldano anche meno, quindi risolvono anche alcuni problemi di ingegnerizzazione del prodotto, e si prestano ad alcune migliorie dell'immagine che magari vediamo adesso, che adesso esploriamo. Così facendo, ecco, sono nati i primi costosissimi all'inizio TV retroilluminati a LED, visto che per fare un TV possono anche servire centinaia di questi LED, e il prezzo dei componenti di questi LED sufficientemente luminosi per fare questi TV fino a poco tempo fa era intorno al dollaro a esemplare, il dollaro a pezzo. Quindi voleva dire che solo per fare la parte di retroilluminazione di un TV, probabilmente solo di costo industriale, ci poteva essere qualche centinaio di dollari, quindi una quota molto rilevante del prezzo finale. Questo lasciava questi TV a prezzi molto alti. Poi, man mano che questa tecnologia si è diffusa, ovviamente i prezzi sono andati scendendo, ed ecco che finalmente incomincia a esserci una serie di gamme di TV retroilluminati a LED che hanno una serie di vantaggi, sia in termini prestazionali puri, cioè qualità d'immagine, e sia in termini anche di ingegnerizzazione, quindi spessori molto più ridotti. Stiamo parlando di LED a luce bianca oppure cambiano colore? No, allora dipende dai produttori. Questo è uno dei vantaggi dei LED, il fatto di poter controllare le lunghezze d'onda e l'emissione cromatica della luce in maniera molto più precisa. Per fare questo ovviamente basta cambiare i transistor che sono all'interno, il diodo che è all'interno del LED, che una volta costruito con quelle componenti chimici ha quell'emissione luminosa assolutamente definita, quindi è unica e calcolabile. Alcuni produttori usano addirittura delle quadruplette di LED, due verdi, uno rosso e uno blu, per costruire il colore della luce, diciamo il punto cromatico, sì, assolutamente voluto, modulando la luce di questi LED. Addirittura possono cambiarlo nel corso dell'immagine o con le regolazioni che fa l'utente sul TV. Altri invece utilizzano dei LED che consumano meno e sono anche più duraturi, che sono i LED blu. In realtà di blu c'è molto poco, è una luce bianca un pochino fredda e che viene riscaldata, diciamo così, con l'aggiunta di qualche fosfori, qualche punto di fosfori rossi e verdi che vengono colpiti da questa luce e, come dire, controbilanciano questa dominante blu, ritrasformandola in una luce bianca. Sì. È chiaro che l'effetto finale deve essere quello di una luce percepita come bianca da parte dell'utente, perché non è che l'immagine può essere colorata o avere una dominante. Sicuramente con il LED, molto più che con le lampade tradizionali, si può controllare precisamente questo punto di luminosità. Perché poi le immagini e i colori li fanno gli LCD, giusto? Diciamo che prendono la luce, la filtrano opportunamente, poi i colori dovrebbero arrivare proprio dal pannello dei cristalli liquidi che ha i filtri colore, ma se lavorano su una luce che non è pura, è chiaro che, come dire, si tagliano alla base un certo numero di colori che non sono comunque raggiungibili. Più pura è la luce, più bianca, più neutra è la luce, più il TV ha la possibilità di raggiungere il massimo numero di colori teorici del pannello, quindi lavora sicuramente meglio. Senti, in base ai tuoi occhi da esperto, sono effettivamente migliori le immagini delle TV LCD retroilluminate a LED o si può dibattere per ore? Allora, Patè, si può dibattere per ore, ovviamente, come in molte cose. Non esiste una sola architettura di TV retroilluminate a LED, magari sono tre, magari adesso le passiamo anche velocemente. Con alcune di queste le differenze sono assolutamente minime. Sono forse più legate a un abbattimento dei consumi che comunque c'è stato anche sugli altri modelli di TV, e quindi va un po' comunque ridimensionata. Con altre architetture, che sono quella chiamata local dimming e quella LED edge, ci sono dei vantaggi assolutamente interessanti, e soprattutto sulla qualità d'immagine, qualità dei neri per il local dimming e sullo spessore dei TV per il LED edge. Adesso magari vediamo. Ecco, questa cosa del nero, tu ricordo ne hai già parlato, ed è un punto sul quale non dico insisti, però che sottolinei spesso. E con noi in questa seconda parte di 2024 Gianfranco Giardini, il nostro esperto di audio e video digitale. In questa occasione ci stiamo occupando di TV LCD retroilluminate a LED. Questa è la dicitura corretta di questo nuovo prodotto. E visto che ci avete fatto molte domande su questo prodotto, e anzi ci avete chiesto proprio di parlarne, ecco qua la puntata promessa, potremmo dire così. Dunque, dicevamo poco fa che è importante considerare il nero, cioè la capacità delle TV di restituire il nero completo, questo sarebbe l'obiettivo. Ma tu, Gianfranco, questo parametro lo sottolinei spesso, per quale motivo? Sì, è il parametro fondamentale, quello che dà la vera profondità dell'immagine, perché in realtà un po' tutte le tecnologie, per motivi diversi, sia il plasma che l'LCD, che anche il tubo catodico, hanno comunque un nero che non è necessariamente un'immagine, cioè un pixel completamente spento, ma per motivi diversi appunto un po' di luce passa, nel caso dell'LCD perché c'è una retroilluminazione che è sempre accesa dietro. E quindi chiaramente, per quanto il cristallo liquido si depolarizzi e schermi questa luce, ce la fa, ma diciamo non al 100%, quindi un pochino di luce passa e il nero resta un pochino slavato. È come se passassimo, come dire, le nostre immagini in candeggina, tanto per intenderci, cioè leviamo la parte più incisa dell'inchiostro della nostra immagine, se vogliamo vederla come se fosse una foto stampata, che ci rende l'immagine un po' meno profonda, un po' meno tridimensionale, un po' meno reale. Più il nero è veramente nero, più l'immagine si vede bene. E questo in realtà va a sfatare anche un grande luogo comune che fa scegliere molte volte i TV sulla base della luminosità. Ecco, la luminosità, certo, deve esserci una luminosità minima perché il TV dia una buona immagine anche in un ambiente luminoso, magari dove batte il sole, eccetera, eccetera, e questo va da sé. Sì. Ma la luminosità, per il resto, non è un parametro rilevante per la qualità dell'immagine. Anzi, molte volte, proprio perché nei negozi poi spiccano di più, vengono fatti dei TV super luminosi, eccessivamente luminosi, no? Che poi una volta portati in casa, magari in un ambiente non proprio luminoso, serale, eccetera, eccetera, abbagliano, tanto che poi magari si comprano quelle lampade da appoggiare sopra il TV, di fianco al TV, per permettere insomma di creare un po' di luce ambiente e per mitigare questo effetto. Quindi per esempio la luminosità è un parametro che non è più rilevante. Tutti i TV digitali, sia plasma che LCD, sono sufficientemente luminosi per qualsiasi tipo di ambiente, mentre il nero, il livello del nero assolutamente è molto più importante per la qualità Ecco, le cose migliorano con la retroilluminazione a LED da questo punto di vista per il nero? Allora, dobbiamo fare un piccolo passo indietro a vedere com'è fatta la retroilluminazione di un LCD. Abbiamo detto che sono una dozzina di lampade neon, quella tradizionale, messe poste orizzontalmente dietro lo schermo. È chiaro che io non posso accendere o spegnere una parte della lampada al neon, devo accenderla assolutamente tutta. E quindi la retroilluminazione c'è, e c'è fondamentalmente sempre. I TV più diciamo che curano la retroilluminazione in maniera un pochino più importante, che cosa fanno? Fanno il cosiddetto dimming, cioè una modulazione della luce, una regolazione della luce a seconda del tipo di immagine. Se arriva un'immagine molto scura, attenuano ma tutta la luce di tutto lo schermo, leggermente. Se invece c'è un'immagine molto luminosa, esaltano un pochino la luce in modo tale da seguire l'immagine, ma fanno chiaramente un calcolo su tutta l'immagine, su tutto lo schermo, e ragionano illuminando tutto lo schermo. Invece, se al posto di queste lampade io ho una serie di LED, che possono essere 200, 300, 400, posso essere più preciso, LED, no, posso decidere di modulare la luce per il singolo LED, non per tutto lo schermo, e quindi andare in qualche modo a seguire l'immagine che c'è sullo schermo, accendendo i LED nelle aree dove ho bisogno di luce e spegnendo invece i LED, o spegnendo non completamente, ma diciamo attenuando molto i LED dove non ho bisogno di luce. Questo viene chiamato appunto local dimming, quindi regolazione locale della retroilluminazione, che è possibile soltanto con una retroilluminazione a LED, e permette qui veramente di avere un nero molto più profondo, perché chiaramente dove ho le aree più scure attenuo la retroilluminazione e non ho l'effetto di questa luce spuria che comunque passava attraverso l'LCD. Dove mi serve luce, ce l'ho. Tutto questo avviene ovviamente in tempo reale, cioè ogni fotogramma viene calcolato e viene calcolato che tipo di retroilluminazione va fatta per quel tipo di fotogramma. Va detta una cosa molto chiara: non tutti i TV LED, cioè retroilluminati a LED, hanno questo circuito, quindi sono local dimming. Okay. Quindi bisogna sincerarsi. La parola local è interessante. Per chi è interessato, bisogna sincerarsi che il modello in questione sia un modello local dimming, per avere questo tipo di tecnologia, che non dà grossi vantaggi in termini di spessore del TV, che resta più o meno quello tradizionale, però dà questi vantaggi in termini di qualità d'immagine, assolutamente sì. Senti, poi parliamo del problema, cioè dei prezzi, se è un problema, non lo so. Ci sono altri vantaggi di questa tecnologia da sottolineare oppure no? Beh, c'è l'altra architettura, LED Edge, che si sta diffondendo molto velocemente, che è molto, molto interessante. È un'architettura assolutamente diversa, in cui i LED non sono posti dietro lo schermo, cioè quindi dietro il pannello LCD, ma sono posti lateralmente al pannello LCD. In realtà subito dietro il pannello LCD c'è un altro vetro che si comporta da guida d'onda, come se fosse una fibra ottica. Un diffusore di luce. Sì, porta la luce su tutto lo schermo, quella che arriva dai lati, no? E siccome ci sono una serie di prismi, microspecchi che raccolgono questa luce e la riflettono in qualche modo verso l'esterno, quindi effettivamente l'effetto visto da fuori è quello di una retroilluminazione, anche se l'illuminazione viene dai lati, non è di qui LED edge, quindi al confine, i LED messi proprio sui quattro lati, no? Dello schermo. Questo che vantaggi dà? Dà un grosso vantaggio perché i LED sono meno e più potenti, quindi più efficienti, consumano meno. Il TV può raggiungere spessori veramente molto piccoli, perché non c'è più tutta la parte di retroilluminazione. Tipo un centimetro, però, su un 40 pollici, come c'è un modello proprio pensato come, diciamo, killer application, è proprio il suo spessore di un centimetro di Sony, lo ZX1, oppure, come dimostrazione di quanto può fare la tecnologia. Oppure c'è la serie 6000-7000 di Samsung, anche questa LED, ma non è un local dimming, è LED edge, anche questa. Quindi, che è 2,5 cm. Perfetto, però in questo caso questa tecnologia non permette una precisione. Ma questa tecnologia non permette un approccio local dimming, cioè una retroilluminazione uniforme su tutto lo schermo che al massimo può essere modulata così come le vecchie dimming, come si faceva, cioè, però ha il vantaggio di consumare meno, di essere più duraturo, di essere anche più uniforme allo schermo come illuminazione e soprattutto quello di avere uno spessore quasi trascurabile. L'effetto sul design del TV, soprattutto quando lo si vede magari spento anche da sotto angoli molto stretti eccetera eccetera, è notevole vedendo TV, questi TV molto sottili. Prezzi, questo è sempre un argomento un po' scottante, vale la pena di affrontare una spesa che immagino sia maggiore rispetto alle TV tradizionali, se non altro perché questa tecnologia è un po' più recente rispetto alle altre. Sì, e anche i LED comunque, che costano meno di quanto costavano magari uno o due anni fa, continuano a costare comunque di più. Sì, i prezzi sono partiti un pochino più altini, quindi diciamo per i grandi schermi 40-46 pollici, diciamo sopra i 2.500 euro, intorno ai 2.500 euro, però stanno scendendo e sono già scesi molto velocemente, magari non proprio a livello di prezzo nominale ma sulla base di offerte speciali che è possibile cogliere qua e là con i vari volantini, con le varie offerte della grande distribuzione, quindi prezzi non sono incredibilmente distanti, certo sono un pochino più alti rispetto ai TV tradizionali. Va detto che non è soltanto il tipo di retroilluminazione che fa il TV, quindi non è che necessariamente un TV LED debba costare di più di un TV a retroilluminazione tradizionale e debba essere necessariamente migliore, perché oltre alla parte di immagine, retroilluminazione, c'è tutta l'elettronica, ci sono i TV che sono senza fili e quindi possono essere messi dovunque, sì. Ci sono TV che hanno la presa di rete e di fatto sono dei client di LNA, possono collegarsi a internet, a PC e fare molte cose. Ci sono dei TV che hanno prese USB le quali possono leggere foto e filmati. Cioè, sì, quindi quando si sceglie un televisore bisogna vedere qualche parametro, non soltanto magari i dati dichiarati sul rapporto di contrasto, che è un dato che non serve più a niente perché praticamente sono dati di fantasia, ognuno lo misura come vuole, quindi non sono dati confrontabili. Non bisogna vedere la luminosità, bisogna vedere le vere dotazioni del prodotto e magari, questo lo diciamo sempre ma lo ripetiamo tutte le volte, bene. Farsi dare per un attimo in mano anche il telecomando del TV, che è l'unica cosa che si toccherà per tutta la vita di quell'apparecchio e che è quello che normalmente non viene mai guardato, lo si scopre a casa quando si apre la confezione. Esatto. Bene, io ringrazio Gianfranco Giardina per essere stato con noi, per averci fatto scoprire questa nuova tecnologia, anche per averci ragguardato sull'acquisto di un TV nuovo. Grazie, buon lavoro, a presto. Grazie mille. E così chiudiamo questa puntata di 2024. Torniamo la prossima settimana, sempre il sabato, nel pomeriggio di Radio 24 tra le 15.30 e le 16.30, oppure online. Tutte le informazioni sono su www.radio24.it. Vi consiglio di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast. In questo modo potrete scaricare settimana dopo settimana in maniera completamente automatica, grazie ad alcuni software come ad esempio iTunes, ma ne esistono anche altri per la gestione dei podcast. Dicevo, scaricare settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione. Grazie a Luigi Borghi in redazione, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Cercheremo di rispondere a tutte le vostre email. Io sono Enrico Pagliarini, grazie per la vostra attenzione. Appuntamento alla prossima settimana e per ora buon ascolto con i programmi di Radio 24. You are disconnected.